Respiro. Buongiorno ascoltatori, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. In apertura subito il tema di cui ci occupiamo oggi, e cioè il piano casa. Se ne è molto parlato, se ne parlerà ancora molto, soprattutto dopo quanto è accaduto in Abruzzo. Il terremoto dell'Aquila con i suoi morti, gli sfollati, le case venute giù come burro. Era possibile, costruendo in maniera differente, cioè rispettando i criteri antisismici, evitare una catastrofe del genere? È possibile che un paese come il nostro, anche quando legifera, deve essere costretta a un'ecatombe del genere per tornare sui suoi passi? Accade così anche per il piano casa. Oggi il provvedimento, discusso nuovamente, ha inserito una nuova riga. Premi incubatura per chi costruisce antisismico. Il testo sarà rivisto con la collaborazione delle regioni. Detto questo, guardiamo che cosa dice, almeno per ora, il piano previsto dal governo. L'intesa raggiunta prevede aumenti volumetrici del 20% per le abitazioni e del 35% nei casi di demolizione e ricostruzione, purché compiuti con tecniche di bioedilizia. Le volumetrie si riferiscono solo all'edilizia residenziale. Sentiamo i contenuti. Si potrà allargare casa anche fino al 40% acquistando il permesso del vicino e quindi sommando le due percentuali, e saranno più facili gli interventi anche nei centri storici e nelle aree vincolate. Confermata la possibilità di ampliare fino a un massimo del 20% il volume delle abitazioni private. Il tetto sale al 35% nel caso in cui, in conseguenza di una demolizione, si proceda alla costruzione di un nuovo edificio, a condizione che siano utilizzate tecniche di bioedilizia o fonti di energia rinnovabile. Non è specificata la necessità che gli immobili oggetto degli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento debbano essere stati costruiti prima dell'89, così come invece era spiegato nelle linee guida. Sarà possibile cambiare destinazione d'uso con o senza opere edilizie. Se si tratta di una nuova fabbrica, poi, non si può superare di oltre 4 metri l'altezza massima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. Chi deciderà di ampliare la prima casa avrà uno sconto del 50% sul balzello che si deve ai comuni per la costruzione. Il taglio del 50% è previsto anche per gli interventi che siano realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile. Restano fuori dal raggio di intervento del decreto le aree inedificabili, parchi, aree naturali e archeologiche. Per tutte le aree non incluse nell'elenco, ma vincolate, occorre il nulla osta delle autorità. Per quelle non soggette ai vincoli, invece, i comuni, entro 30 giorni dalla DIA, possono imporre aggiustamenti tecnico-estetici. Dunque ora si stanno anche studiando sistemi per incentivare gli italiani a mettere in sicurezza la propria abitazione. Una delle proposte, ad esempio, riguarda la defiscalizzazione del 55% anche all'adeguamento antisismico. È possibile che per convincere un proprietario a costruire rispettando regole che salvino in molti casi la vita si debba passare dalla defiscalizzazione? L'idea di semplificare e defiscalizzare piace sia a destra che a sinistra. Il problema è che anche all'Aquila alcuni edifici erano stati, almeno così si diceva sulla carta, costruiti in maniera antisismica. C'è da augurarsi che nel futuro anche le case che verranno costruite grazie al piano casa e agli incentivi antisismici non facciano lo stesso percorso. Eppure, a pochi giorni dal terremoto dell'Aquila, mentre la magistratura indaga sui crolli e su come vennero costruiti alcuni edifici, soprattutto pubblici, cominciano a rimbalzare le responsabilità. Allora siamo andati a chiedere al presidente dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila, Giuseppe Zia, quanto gli ingegneri, cioè di solito i direttori dei lavori, abbiano in questi anni lavorato rispettando le norme e rispettando l'ambiente. Sentiamo. Fino a qualche anno fa il territorio, ma ancora diciamo escluso l'ultima ordinanza, l'ultima norme tecniche, una volta in base alle richieste di finanziamenti che venivano fatte, quindi una classificazione era del tutto empirica ed era così. Allora l'Aquila è stata sempre classificata a seconda categoria, era un coefficiente che poi veniva messo quando si faceva un calcolo sismico di un fabbricato, perché poi c'erano quelle zone di prima categoria che erano per esempio Avezzano, era la zona di prima categoria. Il fatto che ci siano delle responsabilità anche da parte appunto di chi fa parte del suo ordine, quindi degli ingegneri, cioè sta sollevando una discussione interna tra di voi? Ma le responsabilità sono individuali. Le responsabilità sono individuali, ed è vero, però è vero che con quasi 300 morti sulle spalle e una ricostruzione da far partire, bisognerà contarsi e scegliersi. Soprattutto all'interno dell'ordine degli ingegneri e dei costruttori, si dovrà far piazza pulita di tutti coloro che fino ad oggi hanno costruito male, senza rispettare l'ambiente, senza rispettare criteri antisismici. È possibile? Ancora Zia, presidente dell'ordine degli ingegneri dell'Aquila. Guardi, è stato costruito con criteri antisismici, la progettazione sicuramente è stata fatta, se ci può essere qualche, non lo so, le ho detto già lo spaccato qual è, quello degli anni 60-70, dalle situazioni invece degli ultimi anni, questo sì. Il piano casa, a parte nessuno l'ha ancora visto, quali sono le norme, comunque se doveva venire all'Aquila, comunque eravamo soggetti ad avere l'approvazione del genio civile, qualunque struttura che noi avremmo potuto costruire all'Aquila eravamo soggetti all'approvazione del genio civile. Gli ampliamenti andavano lo stesso soggetti, perché noi quando facciamo qualunque cosa strutturale all'Aquila non potevamo non passare per il genio civile, perché è sempre stata zona. Allora, il discorso è diverso, guarda. Quello che non hanno saputo fare dal Regno d'Italia in poi, tutti i governi, è una nazione con pericolosità sismica dal nord al sud, soprattutto l'Appennino lo è. I vari governi, i vari parlamenti, secondo me, devono iniziare a capire che allora, al di là di questo, occorre mettere a norma gli edifici. L'edificio oggi viene progettato per una durata di 50 anni, quindi significa che l'edificio non è come una macchina che va a un momento revisionata negli anni. Questo è il discorso. Edifici costruiti in cemento armato 40 anni fa, dove allora, innanzitutto il cadastro, da quello che so io, era un edificio costruito per civile abitazione, giù di lì, e poi è dato al cadastro, da quello che mi risulta. Cioè, quindi è dato al catasto dicendo che comunque era antisismica questa struttura. Quanti, questi erano tutti quanti edifici calcolati sismici all'epoca, perché in categoria di secondo grado. Questo, guardi, se succede a Roma o succede ad altre parti, è la stessa cosa. Il diverso è il discorso invece degli edifici costruiti negli ultimi anni, dove le strutture di incendio armato hanno retto, perché altrimenti invece di 300 morti sarebbero stati 30.000 morti. Questo è quello che bisogna iniziare a capire. Però mi scusi, cioè questi edifici, tipo il catasto, no? Lei dice c'è cioè, un edificio che era partito come un edificio privato, poi è stato adibito con una firma, con un'autorizzazione da parte. Sono edifici. Ma qualcuno deve aver verificato, no? Cioè, sono stati fatti il collaudo statico, con il modo di pensare, di vedere di 40 anni fa. Allora. Escludiamo i casi isolati dei crolli, la casa dello studente. E però la casa dello studente è una storia, nel senso che sono morte delle persone, cioè quella è una storia, cioè lì ci sono delle responsabilità. E lì ci saranno responsabilità, non lo so, costruttive. Però lei dice, cioè bisogna adesso andare in giro per tutta l'Italia a fare queste verifiche, no? Sì, ma questo lo sto dicendo da 6 aprile io. Quindi questa cosa lei l'aveva detta anche nel caso della casa dello studente, cioè era una cosa che si sapeva, l'avevate tirata fuori voi. La casa dello studente io per ne so, dico, ma le responsabilità sono individuali. L'Italia con le ultime norme è passata, diciamo, primo, secondo, terzo e quarto grado, rimaniamo ancora in questa vecchia distinzione, è passata tutta sismica e quindi anche dove fino a ieri non veniva fatto nessun calcolo sismico, oggi deve essere considerata anche a bassa sismicità. Giusto per dirle, se una scossa di quella terremoto succede a Pescara, giusto per dire, dove è stata di bassa sismicità solo negli ultimi anni, i palazzi vengono giù come cose di cartapesta. Questo forse che in Italia non si è mai voluto capire. Dall'Abruzzo andiamo al Veneto, perché è stata una tra le regioni che con più slancio hanno salutato il piano casa.

considerevoli per poter realizzare edifici di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, per risolvere il problema di quella fetta consistente di popolazione che non può accedere né al mercato della compravendita né al mercato dell'affitto, è un dato centrale. Sugli aspetti poi invece legati alla seconda parte, diciamo così, del piano casa, per noi per esempio l'intuizione di offrire premi di cubatura a chi demolisce e ricostruisce fabbricati di bassa qualità sotto tanti punti di vista è un dato assolutamente positivo, perché la cultura architettonica oramai da 10 anni riflette sulla demolizione come strumento importante per processi di riqualificazione urbana, e per stimolare una demolizione non c'è dubbio che occorrano premi di cubatura. Certo, il problema che noi poniamo è non soltanto del quanto ma anche del come. Cioè, il problema qui non è soltanto dire che si demolisce e si ricostruisce con criteri di bioarchitettura, che è sicuramente un dato centrale oggi per definire la qualità delle opere edilizie, ma non può essere il solo. E quindi la qualità di quello che andremo a ricostruire, anche in, secondo altri criteri che sono la funzionalità, ma anche l'estetica, il linguaggio, l'integrazione con il contesto, il rapporto tra residenza e spazi della città, sono tutti dati per noi fondamentali, e quindi la nostra preoccupazione in questo momento è soprattutto sul come si andrà a operare questa ricostruzione. E infine sull'ampliamento del 20% noi avevamo molte perplessità sulla prima versione del decreto, quella che consentiva anche ai condomini o agli edifici in aree urbane di poter operare questo ampliamento. Adesso nella nuova versione che sembra avere il decreto dopo l'accordo con le regioni, in cui questa opportunità viene limitata soltanto alle case mono e bifamiliari, diciamo il provvedimento è più misurato. Certo, occorrerà che le regioni sappiano tutelare tutte le zone che hanno un valore paesaggistico o una fragilità territoriale o un valore storico, insomma. Poi un'altra cosa è invece l'attenzione che è stata data alla bioedilizia, però la perplessità dal mio punto di vista è siamo pronti per affrontare argomenti di questo genere? Il singolo cittadino sa di cosa parla quando parla di bioedilizia? No, assolutamente no, questo lei ha perfettamente ragione. Diciamo che è una cultura che comincia adesso a diffondersi tra i professionisti, ma per i cittadini quando si parla di bioarchitettura si pensa che tutto sia risolto nell'installazione di qualche pannello solare o di qualche pannello fotovoltaico, ma non è questa la bioedilizia. La bioedilizia è realizzare edifici che siano intelligenti dal punto di vista energetico, e quindi innanzitutto che abbiano un grado di isolamento, di ventilazione naturale tale da avere ridurre al minimo le dispersioni termiche e quindi l'energia necessaria a compensarle, ma poi significa anche usare materiali riciclabili, usare accorgimenti tecnologici tali da poter ridurre le emissioni di CO2 nell'aria e via dicendo. Per Italia Nostra si tratta di un gravissimo attacco alla qualità dei territori ed è una risposta sbagliata alla crisi economica. 12 mesi di condono preventivo, questa invece per Legambiente è la sostanza del decreto sul piano casa proposto dal governo. In chiusura vi salutiamo con un estratto tratto da un libro, 1933, un anno terribile, di John Fante, un autore, come molti di voi sapranno, italo-americano, figlio di padre abruzzese, un padre abruzzese e muratore, capace di tirare su case e figli con una ruvida semplicità. Un brano per salutare, a modo nostro, l'Abruzzo, l'Aquila e la gente che vi vive. Conoscevo bene il peso che aveva sull'anima e mi faceva pena. Era sola. Le sue radici erano sospese in una terra straniera. Non sarebbe voluta venire in America, ma mio nonno non le aveva dato possibilità di scelta. C'era miseria anche in Abruzzo, ma era più dolce, condivisa da tutti, come pane che si passa di mano in mano. Anche alla morte partecipavano tutti, e così al dolore e alla prosperità. Il villaggio di Torricella Peligna era come un solo essere umano. Mia nonna era come un dito strappato dal corpo, e non c'era niente nella nuova esistenza che avrebbe potuto mitigare la sua desolazione. Era come tutti gli altri che erano venuti da quella parte d'Italia. È tutto. Respiro termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che potete scriverci a respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.